come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte ci facciamo così male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore. Ho soltanto una vita e la vorrei dividere con te, che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto, incanto. Istantanee di secondi lunghi quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere dove va a finire il sole, se il freddo delle parole gela lo stupore, se non ti so scaldare né curare dal rumore. Ho soltanto una vita, la vorrei rivivere così. Incanto, è un incanto. Istantanee di secondi lunghi quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto. Na na na, na na na, na na na. Il sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto. Istantanee di secondi lunghi quanto un anno bisestile, quando posi la tua testa su di me il dolore tace incanto. Incanto, semplicemente incanto.